La principessa di Parma, che ignorava finanche il nome del pittore, agitò energicamente la testa e sorrise con ardore al fine di manifestare tutta la sua ammirazione per il quadro citato. Ma l'intensità della sua mimica non riuscì a mascherare l'assenza di luce tipica del nostro sguardo quando non sappiamo di che cosa ci stiano parlando. «È un bel ragazzo, vero?» chiese la principessa. «Non direi, assomiglia a un tapiro. Gli occhi sono un po' quelli di una regina Ortensia da paralume, ma devi aver pensato che, essendo maschio, sarebbe stato piuttosto ridicolo sviluppare quella somiglianza, e così tutto svanisce in un paio di guance tirate a cera che gli danno una cert'aria da mammalucco. C'è da supporre che gliele lucidino tutte le mattine. Swan», aggiunse la duchessa tornando al letto del giovane duca, «è stato colpito dalla somiglianza della sirena con la morte di Gustave Moreau. D'altronde», concluse in tono più sbrigativo e non di meno serio per far ridere di più, «non è il caso di turbarsi, si trattava di un semplice raffreddore di testa e ora il giovanotto sta d'incanto». «C'è chi dice che sia snob, è vero?» si informò malignamente il signor di Broté con l'aria di aspettarsi una risposta altrettanto precisa che se avesse chiesto «dicono che abbia solo quattro dita alla mano destra, è vero?» «Mio Dio, no!» rispose Madame de Guermantes con un sorriso di dolce indulgenza. «Forse appena appena, in superficie, talmente giovane. Ma mi stupirebbe che lo fosse davvero, perché intelligente», sentenziò come se scorgesse un'incompatibilità assoluta fra snobismo e intelligenza. «E fine, l'ho visto anche divertente», aggiunse con una risatina ghiotta da intenditrice, come se giudicare divertente qualcuno esigesse una certa espressione di gaiezza o i frizzi del duca di Guastalla le tornassero in mente giusto in quell'istante. «Del resto, visto che nessuno lo riceve, il suo snobismo non avrebbe modo d'esercitarsi», concluse la duchessa, senza pensare che così non incoraggiava molto la principessa di Parma. «Mi chiedo cosa dirà il principe di Guermantes, che la chiama Madame Iena, se verrà a sapere che sono andata a casa sua». «Ma come?» sbottò Madame de Guermantes con straordinaria vivacità. «Se siamo stati noi a cedere a Gilbert», la duchessa ora se ne pentiva amaramente, «un'intera sala da gioco impero che ci veniva da Chiù, un vero splendore. Da noi non c'era spazio, eppure stava tanto meglio qui che in casa sua. È di una bellezza assoluta, mezzo etrusca e mezzo egiziana». «Egiziana?» chiese la principessa, alla quale l'aggettivo etrusca non diceva granché. «Mio Dio, un po' tutte e due. Era Swan che lo diceva. Me l'ha spiegato, solo che io, sapete, sono una povera ignorante. E poi, in fondo, bisogna dire che l'Egitto dello stile impero non ha nessun rapporto col vero Egitto, né i loro romani con i romani, né la loro Etruria». «Davvero?» si meravigliò la principessa. «Ma sì! È come quello che chiamavano un abito Luigi XV durante il Secondo Impero, quando erano ancora giovani Anna de Mouchy o la madre del caro Brigot. Poco fa Bazaine vi parlava di Beethoven. L'altro giorno ci suonavano una cosa sua molto bella, tra l'altro, un po' fredda, dove c'è un tema russo. È commovente pensare che lui credesse russa quella roba, o come i pittori cinesi che credevano di copiare Bellini. Del resto, anche nello stesso paese, ogni volta che qualcuno guarda le cose in un modo un po' nuovo, i quattro quarti delle persone non vedono un accidente di ciò che quello gli fa vedere. Ci vogliono almeno 40 anni perché riescano a raccapezzarsi». 40 anni!» esclamò sgomenta la principessa. «Ma sì!» ribadì la duchessa imprimendo via via le proprie parole, che erano quasi alla lettera parole mie, perché avevo appunto espresso in sua presenza un concetto analogo. Grazie alla pronuncia, l'equivalente di quello che, in rapporto ai caratteri tipografici, si definisce corsivo, è una sorta di primo individuo isolato di una specie che ancora non esiste ed è destinata a pullulare. Un individuo dotato di una sorta di senso che la razza umana, all'epoca, non possiede ancora. Io, per la verità, non faccio testo, perché ho sempre amato, sin dall'inizio, tutte le manifestazioni interessanti, per quanto nuove fossero. Ma insomma, pochi giorni fa sono andata al Louvre con la Granduchessa, siamo passate davanti all'Olimpiadi Manet. Nessuno ormai se ne scandalizza. Sembra un ingré. Eppure sa Dio quante lance ho dovuto spezzare per quel quadro, di cui non tutto mi piace, ma che sicuramente di qualcuno. Il Louvre forse non è proprio il suo posto. «Sta bene la Granduchessa?» chiese la principessa di Parma, alla quale la zia dello zar era infinitamente più familiare della modella di Manet. «Sì, abbiamo parlato di voi. In fondo», riprese la duchessa, affezionata alla sua idea, «la verità è, come dice mio cognato Palamed, che fra ciascuno di noi e tutti gli altri c'è il muro di una lingua straniera. E questo, lo ammetto, è particolarmente vero per Gilbert. Se vi diverte andare dagli Yéna, avete troppo spirito per subordinare le vostre azioni a ciò che può pensare quel brav'uomo, che è una cara, innocente creatura, ma, diciamolo pure, ha delle idee dell'altro mondo. Mi sento più prossima, più consanguinea del mio cocchiere, dei miei cavalli, che di un uomo perennemente preoccupato di richiamarsi alla mentalità dei tempi di Filippo l'Ardito, di Luigi il Grosso. Pensate che, quando va a spasso in campagna, fa segno ai contadini col bastone di scostarsi, dicendo in tono bonario «Fate luogo, villani!». In fondo, quando mi parla, rimango stupita, come se mi sentissi rivolgere la parola dalla figura di qualche antica tomba gotica. Quella scultura vivente ha un bell'essere mio cugino. Mi fa paura e non penso ad altro che a lasciarlo tranquillo nel suo medioevo. A parte questo, ammetto che non ha mai ammazzato nessuno. «Abbiamo giusto appunto pranzato insieme da Madame de Villeparisis», disse il generale, ma senza sorridere né mostrare alcuna adesione alle battute della duchessa. «C'era anche il signor di Norpois?» chiese il principe Fon, che pensava sempre all'Accademia delle Scienze Morali. «Sì», confermò il generale. «Anzi, ha parlato del vostro imperatore». «Sembra che l'imperatore Guglielmo sia molto intelligente, ma non gli piace la pittura di Elstir. Non lo dico per criticarlo», precisò la duchessa, «perché condivido il suo punto di vista, anche se Elstir mi ha fatto un bel ritratto. Non lo conoscete? Non mi assomiglia, ma è curioso. È stato interessante posare per lui. Mi ha raffigurata come una specie di vegliarda. Si ispira alle reggenti dell'ospizio di Hals. Suppongo che conosciate quella cosa sublime, per usare un'espressione cara a mio nipote», aggiunse volgendosi verso di me la duchessa, che faceva frusciare leggermente il suo ventaglio di piume nere. Drittissima sulla sedia, rigettava nobilmente indietro la testa, perché, pur essendo sempre grandama, s'atteggiava un poco a grandama. Risposi che ero stato ad Amsterdam e all'Aia, ma che, per non fare confusione, poiché il mio tempo era limitato, avevo rinunciato ad Harlem. «Ah, l'Aia, che museo!» esclamò il signor di Guermantes. Gli dissi che ero certo vi avessi ammirato la veduta di Delft di Vermeer. Ma il duca era meno istruito che orgoglioso. Così si limitò a buttarmi là, con aria di sufficienza, come ogni volta che gli si accennava a un'opera di un museo oppure del Salon, e lui non se ne ricordava: «Se è da vedere, l'ho vista di sicuro». «Come? Siete stato in Olanda senza andare ad Harlem?» proruppe la duchessa. «Ma se anche aveste avuto appena un quarto d'ora, è troppo straordinario vedere quegli Hals. Oserei dire che se uno potesse vederli solo dall'imperiale di un tram in corsa, nel caso che fossero esposti all'aperto, dovrebbe aprire ben bene gli occhi. Questa frase mi urtò, perché non teneva conto del modo in cui si formano dentro di noi le impressioni artistiche e perché sembrava implicare che l'occhio funzioni in simili circostanze come un semplice apparecchio che scatta delle istantanee. Il signor di Guermantes, felice che la moglie mi parlasse con tanta competenza degli argomenti che mi interessavano, contemplava la sua celebre prestanza, ascoltava le sue parole su Franz Hals e pensava: «È meravigliosamente ferrata in tutto. Il mio giovane ospite può ben dire a se stesso d'essere alla presenza di una grandama d'altri tempi nella più ampia accezione del termine, e come oggi non ne esiste una seconda. Tali io li vedevo entrambi, estratti da quel nome Guermantes, all'interno del quale, prima, li immaginavo in atto di condurre una vita inconcepibile, simili, adesso, agli altri uomini e alle altre donne, un po' in ritardo solo sui loro contemporanei, ma in modo ineguale, come tante coppie del Faubourg Saint-Germain in cui lei ha avuto l'arte di sapersi fermare all'epoca d'oro, lui la sventura di scendere sino all'epoca ingrata del passato, l'una ancora Luigi XV, mentre l'altro è pomposamente Luigi Filippo. Che Madame de Guermantes fosse una donna come le altre, se era stata dapprima per me una delusione, era adesso, per reazione e con l'aiuto di tanti ottimi vini, quasi una meraviglia. Un Don Giovanni d'Austria, un'Isabella d'Este, confinati per noi nel mondo dei nomi, comunicano così poco con la grande storia come la parte di Méséglise con la parte di Guermantes. Isabella d'Este è stata certamente, nella realtà, una piccolissima principessa simile a quelle che, sotto Luigi XIV, non ottenevano a corte alcun rango particolare. Ma poiché ci sembra di un'essenza unica e dunque incomparabile, non possiamo concepirla di una grandezza inferiore a quella di lui, di modo che una cena con Luigi XIV ci parrebbe rivestire solo un modesto interesse, mentre un incontro soprannaturale con Isabella d'Este ci consentirebbe di vedere con i nostri occhi un'eroina di romanzo. Ora, dopo aver constatato, studiando Isabella d'Este, trapiantandola pazientemente dal mondo fiabesco in quello della storia, che la sua vita, il suo pensiero, non contenevano nulla della singolarità misteriosa suggeritaci dal suo nome, una volta consumata la delusione, siamo infinitamente grati a quella principessa di aver avuto della pittura di Mantegna una conoscenza quasi identica a quella sino allora disprezzata e posta, come avrebbe detto Françoise, sotto rasoterra del signor La Fenêtre. Ora che, scalate le inaccessibili altezze del nome Guermantes, scendevo lungo il versante interno della vita della duchessa, provavo, nel ritrovarvi nomi altrove familiari di Victor Hugo, di Franz Hals, Amy, di Vibert, lo stesso sbigottimento di un viaggiatore che, dopo aver tenuto conto per immaginare la singolarità dei costumi in una valle selvaggia dell'America centrale o dell'Africa tropicale, della distanza geografica, della stranezza dei toponimi, della flora e attraversata infine una cortina di aloe giganti o di manzanigli, scoprisse alcuni indigeni assorti, magari davanti alle rovine di un teatro romano e di una colonna dedicata a Venere, nella lettura di Merop o di Alzire. E, così lontana, così in disparte, così al di sopra delle borghesi istruite di cui avevo avuto esperienza sino allora, la non diversa cultura con la quale Madame de Guermantes si era sforzata, senza alcun movente di interesse o d'ambizione, di scendere allo stesso livello di persone che non avrebbe mai conosciute, aveva il carattere meritorio, quasi commovente, a forza di essere privo di qualsiasi utilità, di un'erudizione in materia di antichità fenice in un uomo politico o in un medico.